la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30, primi 17 secondi in diretta da Milano. Vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto, Oscar Giannino. Vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it. Molti hanno chiesto alcuni versanti di approfondimento per il terremoto. La settimana prossima li mettiamo in preparazione, in cottura. Oggi vi dico subito che è una puntata in ideale prosecuzione di quella di ieri, che ha suscitato una vasta eco di lettere e sms al sottoscritto. Ieri, ve lo ricordo, sì, parliamo ancora di terremoto, ma non solo di terremoto e opere pubbliche, perché ieri abbiamo dedicato la trasmissione insieme ad Antonio Amoroso, autore di un bellissimo libro sulle Coop Connection, è il titolo del suo libro sul sistema Coop. Antonio Amoroso ieri sul quotidiano La Verità ha sollevato un problema che io condivido la prima e l'ultima parola, e ve l'abbiamo spiegato ieri nel corso della nostra trasmissione, e cioè a vincere la gara che si è tenuta prima di quest'ultimo terremoto, una gara importante lanciata dalla Consip, quindi una gara centralizzata la pubblica amministrazione per ridurne i costi, una gara da 1,1 miliardi per casette ai colpiti da sisma e eventi naturali. È risultata una cooperativa, l'Emiliana CNS, che è partecipata e controllata da Manutencoop, un gigante delle pulizie nel nostro paese, e però insieme proprio queste due centrali cooperative sono state oggetto di una sanzione dell'antitrust confermata dal TAR, perché partecipano a gare spartendosi il mercato, cioè per accordi di cartello. E la nostra opinione è che, come ha fatto l'azienda sanitaria di Salerno, la SL di Salerno, che ha fatto scattare l'autotutela e quindi a questo punto le sue dalle gare, bisogna fare la stessa cosa per la gara delle casette vinta dall'Emiliana CNS, partecipata al Manutencoop. È un tema su cui la politica soprassiede. E perché questa puntata è in continuità col tema che abbiamo sollevato ieri? Perché nel frattempo poi sono venute due novità. Stamattina si è tenuto un Consiglio dei Ministri che ha avuto come ordine del giorno, è durato pochissimo, dalle 9 alle 9.45, l'approvazione di un decreto legge. Non ne abbiamo ancora il testo, c'è il comunicato però sul sito del governo per chi volesse approfondire. Il decreto legge comporta degli interventi accogliendo la voce dei sindaci e degli amministratori locali per snellire le procedure per affrontare l'emergenza. Snellire le procedure significa che il nuovo codice degli appalti, di cui siamo dopo la riforma per delega e la riscrittura, visto che il Consiglio di Stato aveva fatto ben 120 richieste di correzione, siamo in attesa del completamento delle linee guida, una ventina che dovevano essere emanate dall'autorità anticorruzione. Detto questo, le procedure vengono considerate troppo pesanti e lunghe rispetto all'affrontare l'emergenza. Il decreto legge consente alcune procedure accelerate, bisogna avere il testo per valutarle, e poi estende l'area dei comuni interessati dall'eccezionalità del regime rispetto a quelli del ristretto epicentro dei tre sismi, ricordiamo quelli di agosto, poi del 26 ottobre, poi del 30 di ottobre, e contiene anche misure per consentire comunque il regolare svolgimento del calendario scolastico. Ma insomma si riparla di deroghe, come vedete, si riparla di deroghe, e questa è la prima novità. La seconda novità è che a Roma, e qui si parla di opere, invece nel frattempo sono emerse due novità, perché la giunta guidata dal sindaco Raggi deciso che Roma Metropolitana, la società controllata dal comune incaricata di effettuare la progettazione nel tempo, è una società creata a metà degli anni 2000, delle linee aggiuntive della metropolitana, non ha svolto la sua funzione bene, e quindi va chiusa in buona sostanza. E stamattina, rispetto a questa decisione presa in giunta al Consiglio Comunale, c'è la delibera votata dal Consiglio Comunale, sarà votata in Consiglio Comunale, e il sindaco Raggi ha confermato che a questo punto la linea C con certezza arriverà fino al Colosseo, e quindi altri 3 anni di lavori, 4, ma il tratto finale ancora non finanziato per fino a Piazzale Clodio si vedrà più avanti, ma insomma è molto complicato immaginare di farlo, perché fino a questo momento già per errore di progettazione proprio di Roma Metropolitana gli oneri sono saliti di 700 milioni, quindi non poca roba. Repubblica ha dato molto spazio oggi a questa notizia, con 2 pagine e con un lungo commento di Sebastiano Messina, molto critico verso le decisioni della Giunta di Roma, perché la tesi è quella: non fare per non rubare, e così però entriamo in un vicolo cieco. Va bene l'anticorruzione, ma entriamo in un vicolo cieco, perché dopo il no alle Olimpiadi, le polemiche sulla nuvola di Fuxas, anch'essa costata un'ira di Dio di soldi, non vedo lo scandalo nel ricordarlo, visto il ritardo con cui è arrivata, senza dimenticare il ritardo storico, l'esplosione di costi anche relativa al villaggio sportivo Calatrava. La tesi di Repubblica è che Olimpiadi e la nuvola ora la metro, il rischio è che la terapia dei 5 Stelle contro gli sperperi chiuda tutte le porte dello sviluppo. Va bene cambiare criteri per evitare errori di progettazione, varianti d'opera e l'esplosione dei costi, però non si può in base a questo dire fermi tutti. Ecco, queste due cose sono unite in primis perché ci hanno scritto anche molti imprenditori dopo la puntata di ieri con Antonio Amorosi, e una di queste, a dirvi la verità, io ho chiesto di ripeterci in trasmissione oggi il motivo per cui mi ha scritto, perché è un imprenditore del ramo e che mi ha detto: beh, i prezzi di cui avete parlato ieri, lo ricordo, la base d'asta di aggiudicazione, la gara anzi per quel 1,1 miliardi di euro per le casette per gli sfollati del terremoto di cui abbiamo parlato ieri, quella bandiera dalla Consip, si è chiusa con un prezzo riconosciuto di 1046 euro a metro quadrato, e ieri vi abbiamo ricordato il dato molto più basso invece che l'agenzia del territorio stima per il prezzo medio dell'edilizia residenziale in quella parte d'Italia, che ha prezzi molto bassi come è evidente rispetto alle grandi città. Alcuni di voi ieri sono intervenuti dicendo: no, non è vero, la stima dell'agenzia del territorio è troppo bassa, quindi non bisogna stupirsi dei 1046 euro a metro quadro. Allora, la prima testimonianza, appunto, per tornare sull'argomento di ieri, su quella gara che secondo me l'anticorruzione dovrebbe bloccare alla luce della condanna dell'antitrust confermata dal TAR, e sono le osservazioni portate dal nostro primo ospite Riccardo Maggiolo, che ringrazio per averci scritto e per essersi reso disponibile a ripeterle qui allo studio. Allora, Maggiolo, grazie di essere con noi. Di che cosa si tratta? Buonasera Giannino, grazie dell'invito. Ma in realtà la mia iniziativa era Job Club, legata all'aiutare le persone a cercare lavoro, che è un'iniziativa che è nata 3 anni fa e ha aiutato molte persone a cercare lavoro. Mi aiuti a elaborare la connessione esattamente? Aspetti un secondo, perché qui c'è stato un pasticcio nell'organizzazione della trasmissione e siamo in diretta, e a questo punto io devo spiegare che c'è stato un equivoco, perché io avevo chiesto un ospite ed effettivamente ci siamo sbagliati. Questo può avvenire, caro Maggiolo, quindi la prego un secondo di scusarmi, perché la trasmissione con lei era quella prevista per la settimana prossima, quindi c'è stato un difetto di comunicazione da questo punto di vista, perché ad averci scritto era, quindi io intanto le do appuntamento per la prossima trasmissione a lunedì, perché lei ha animato un'iniziativa, sta animando un'iniziativa tra i molti che ci hanno scritto, però la sua è un'iniziativa che va avanti da alcuni anni in questi difficili anni di crisi, per organizzare una piattaforma per far incrociare la domanda e l'offerta di lavoro, e quindi io mi scuso dell'equivoco che c'è stato, ma non si tratta di questo. Invece ad averci scritto è un ascoltatore imprenditore che attivo proprio nel ramo delle casette prefabbricate, per così dire, e non interessato alle gare per il terremoto, ci esemplificava come le casette per le quali lui lavora molto all'estero, eccetera, eccetera, ha appena vinto una gara molto importante all'estero, quindi lavora molto sui mercati internazionali. Questo ci dice dell'affidabilità e della certificazione dei suoi modelli. Sono modelli molto avanzati, cioè dotati di apparati per il contenimento energetico, pannelli fotovoltaici, eccetera, eccetera. E ciò malgrado il prezzo a metro quadrato sollevava dei dubbi rispetto a quello di una gara come quella della Consip chiusa a 1046 euro a metro quadrato, e da questo punto di vista quindi era molto interessante perché aggiungeva una testimonianza diretta sul fatto che per una gara di quella consistenza vinta da CNS Mountain Coop effettivamente anche dal punto di vista del prezzo, non a detta mia che non ho alcun titolo per parlare su questo come competenza professionale, ma a giudizio di un imprenditore del settore, beh, ci sarebbe stato molto da dire. E sottolineava il nostro ascoltatore, che riprenderemo in una prossima trasmissione, che a questo punto il approfondire questi temi, ora che bisognerà prendere delle decisioni molto importanti che riguarderanno molte centinaia di queste unità straordinarie che servono ad affrontare non solo il primo inverno, ma tempi lunghi, visto che nelle aree colpite dal sisma queste strutture poi restano per anni, ci invitava a insistere nell'approfondimento dei particolari. Ora io mi scuso infinitamente con gli ascoltatori e con Riccardo Maggiolo, ma in questo caso l'errore è stato nostro, e quindi che vi devo dire? Sono gli inconvenienti della diretta? Sì, ma mi batto il petto. Io non l'avevo mai fatto, non ho mai in corso una cosa di questo genere. Vi ho sintetizzato, e a questo punto per correttezza, però quando risentiremo l'imprenditore, non me lo farà lui, vi parlerà della sua impresa, vi svolgerà approfonditamente tutte le considerazioni del caso, che era meglio che facesse lui, e le faremo fare a lui la prossima settimana. Ma allora andiamo al secondo ospite, che questa volta spero di non abbiamo sbagliato, ecco, perché il secondo ospite è quello fatto per approfondire il tema su Roma, collegato agli approfondimenti che noi continueremo a fare giorno per giorno e settimana per settimana su come vengono spesi e per che cosa i soldi nell'area del terremoto, perché lo ribadiamo, la nostra volontà è quella che non si ripetano cose come il Belice, gli Irpini, eccetera, mentre invece abbiamo degli esempi positivi tipo il Friuli a cui continuano a guardare. E a questo punto col secondo ospite ci spostiamo invece a Roma, sulle decisioni assunte dalla Giunta Raggi in relazione allo stop fino al Colosseo, sì, fino a Piazza Venezia, sì, della linea C, ma non fino alla fine, ancora non finanziato il tratto fino a Piazzale Clodio, perché anzi il Comune di Roma dice qui lo sbilancio è tale rispetto alle previsioni che è meglio fermarsi. Allora è con noi un giornalista del Messaggero, autore del libro, e lo abbiamo sentito per parlare del suo libro Disastro Capitale qualche mese fa, Mario Aiello. Grazie di essere con noi, Mario. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, come la pensi tu su questa decisione che ha mosso Repubblica a dire beh no, qui adesso si esagera, però va bene essere duri con i controlli e lamentare con tutto il tono disperato del caso e preoccupato del caso i buchi per le varianti rispetto alla progettazione iniziale, 700 milioni in più fino a questo momento per la linea C, però iniziare a smontare la società del comune incaricata della progettazione significa una campana a morto poi per la linea, per il tratto aggiuntivo della linea B che era previsto, per la linea D che non ci sarebbe mai, eccetera eccetera. Tu come la pensi? Ma guarda, a me al volo mi sono venuti due pensieri a questo proposito. Innanzitutto vorrei sapere cosa ne penseranno i romani che vivono nelle periferie e che in larghissima maggioranza hanno votato per i 5 Stelle e per la Raggi. Cioè rinunciare, perché di fatto questo è, alla linea C è un torto che viene fatto anzitutto a loro. E poi su, diciamo, su un altro piano, che poi quello che a me interessa particolarmente, mi è venuto in mente la Touche, cioè la decrescita, la decrescita felice. La TUS parla della decrescita felice, ma qui si rischia di essere alla decrescita infelice. Cioè, diciamo che la retorica delle mani pulite Sembra più che altro applicata non solo alla metro, ma anche alle Olimpiadi, per esempio, nei mesi scorsi. Cioè, può sembrare davvero un alibi per nascondere, cioè, un'incapacità di fare o una paura di fare. Quando, diciamo, un governo scelto a larghissima maggioranza opta per l'autoparalisi, diciamo, la capitale d'Italia non così non può che uscirne, quindi mi pare di capire non, che non sei, bene da questa cosa, insomma, che sei molto critico. Però io ti do questi no, due. No, io sono abbastanza critico, sì. Ti do questi altri due dati su cui riflettere, tutti insieme, perché è chiaro che queste sono questioni di grandissima rilevanza. Da una parte c'è l'esplosione dei costi, dall'altro c'è la scarsa strada di trasparenza, e dall'altra parte c'è che se ci fermiamo e ci arrendiamo, è ovvio che, come dici tu, andiamo alla decrescita felice. Infelice, non felice. Ma infelice. Aggiungo questi due altri dati. Uno riguarda ancora Roma, e ne scrivete voi oggi sul Messaggero, e uno riguarda la tanto lodata Milano dell'eccellenza e della trasparenza. Cominciamo da Milano. Per le opere del 2015 Expo, titolo ancora oggi di Repubblica, pagina intera, quindi Repubblica non è che distingue, si picchia solo su Roma e su Milano. Milano, quasi raddoppiati i costi finali dei grandi appalti per il 2015. Procedure complete solo per 5 delle 18 maggiori commesse, cioè gare in discussione. Per 6 la trattativa non è mai partita, tutto vistato dall'ANAC, perché per Milano si fece eccezione ed deroga perché il tempo incalzava, eccetera, eccetera. Sì. E però raddoppiati i costi finali. E questo primo elemento. Secondo elemento invece quello di cui si occupa il tuo Messaggero oggi, anche qua un'altra pagina intera, per il giubileo straordinario che si vive tra 20 giorni a Roma, che è stato presentato come una mirabilante occasione turistica per Roma, eccetera eccetera. Il Vaticano dice sono passati 20 milioni di fedeli alla fine in più, eccetera eccetera. A Roma voi stesso scrivete ma insomma, riportiamo la notizia ma ci grattiamo un po' la testa. Però voi fate il bilancio anche in questo caso delle opere, di 146 interventi straordinari annunciati nel 2015 dal Campidoglio, quindi all'epoca Giunta Marino, per il giubileo straordinario del Papa, solo 46 portate a termine. Poche realizzazioni a rilento e ritardi per le mancate risposte dell'anticorruzione. Allora qui ci risiamo però, Mario. Allora, sì. fermiamoci un secondo e mi dai la risposta dopo strade. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta nella pausa di pochi secondi con il mio braccio destro pensante, più pensante di me, Alessandro Marco Tulli. E niente, ci eravamo scambiati come fare la trasmissione, ma ci siamo equivocati entrambi. Naturalmente la responsabilità resta mia. Vi faremo sentire, poi convocheremo l'imprenditore e vi faremo sentire l'altro ascoltatore, Riccardo Maggiolo, perché invece la sua segnalazione è quella di come fare il match, l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, e qui rimedieremo a questo errore. Non mi è mai capitato in tanti anni, può capitare, però colpa mia, mi copro il capo di cenere. Allora, Mario Aiello, giornalista del Messaggero, gli ho citato dopo la decisione della Giunta Raggi, su cui l'avete sentito critico, perché dice va bene, d'accordo, trarre lezioni dagli errori del passato, i sovraccosti delle opere pubbliche, la scarsa trasparenza, però non ci si può fermare, perché altrimenti siamo finiti se i governi si autoparalizzano. E gli ho citato questi due altri esempi, cioè sulle opere pubbliche straordinarie Giunta Marino annunciate per il giubileo che si chiude tra 20 giorni a Roma con lo straordinario del Papa. Scrive il Messaggero: di 146 interventi annunciati, solo 46 portati a termine, poche realizzazioni a rilento. Ma anche sulla virtuosissima Milano, bilancio complessivo di Repubblica, opere per l'Expo e collegate in città, raddoppiati i costi finali dei grandi appalti per il 2015, e la maggior parte dei quali fatti in deroga anche allora, perché naturalmente il tempo dell'Expo. E questi dati, Mario, noi continuiamo a scriverli e a proporli ai nostri ascoltatori e lettori da anni e anni, però continuano a essere così le cose. Beh, guarda, per quanto riguarda Roma, è per me una conferma, cioè pensa che un capitolo di disastro capitale si intitola Giubi Flop. Esatto. Nel senso che era quello del giubileo era un flop annunciato. una cosa cominciata male, proposta o imposta dal Papa così, in maniera improvvisa, con una Roma a quei tempi allo stremo e incapace di progettare alcunché, con una Roma, la Roma successiva, cioè l'attuale, paralizzata da tutte le cose che abbiamo detto prima, era una storia già scritta. Per quanto riguarda Milano è una delusione molto forte, perché tutti noi, nonostante le inchieste, gli scandali dalla sanità a tutto il resto che hanno punteggiato la storia di Milano negli ultimi anni, e non sto parlando dei tempi di Mani Pulite, ma di adesso. No, certo, certo. Tempi di Formigoni e così via. Sì, insomma, tutti ci eravamo illusi, e non che fosse la capitale morale, come ha detto Cantone, il presidente dell'ANAC, ma che comunque insomma, stesse diventando, diciamo, la faccia dell'Italia che cerca di scrollarsi addosso la propria zavorra, così, da sconfittismo, da pessimismo, eccetera. E ecco, il dopo Expo invece purtroppo sembra un bagno di realtà molto triste. Non sanno che fare in realtà di quelle aree. Ci sono problemi di finanziamenti. Come no, sono saltati la legge di bilancio. Renzi è venuto ieri sera qui a Milano proprio per dire: no, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Però ecco, al di là del futuro, se uno ha il tempo per vedere il dettaglio di come è finita sui lavori dell'Expo, ci sono delle cose. Io non sto dicendo per accusare Sala di niente, eccetera, eccetera. Però ripeto, il nostro mestiere, cari ascoltatori, c'è la lista ormai è completa di tutte le gare per l'aggiudicazione dei diverse cose che insiste tra la piastra dell'Expo, eccetera, eccetera. Ve ne cito solo una per farvi capire perché sono raddoppiate, no? Anche qua, Colosso delle Cooperative CMC vince una gara con concorrenza con un ribasso del 42%, no? Da 97 milioni, che era la base di gara per questo lotto di lavori che bisognava fare sulla piastra dell'Expo, CMC scende a 58 milioni. 58 milioni, vince la gara! Naturalmente poi, dopo averla vinta, tra varianti e tutto il resto, a CMC sono state versate 138 milioni. Allora, capite che questo è il sistema, e ripeto, non sto parlando di responsabilità penali, eccetera, eccetera, però questo è il sistema con cui sbattiamo la testa, non andiamo da nessuna parte se continuiamo così. È un caso che parlo di CMC, non ce l'ho con le cooperative e basta, perché poi altri esempi riguardano grandi imprese private, per esempio la cordata guidata da Mantovani. Anche qui arriva a superare, malgrado avesse vinto una gara per 165 milioni, alla fine ne incassa 260 per variante. Così noi, secondo me, non andiamo da nessuna parte. Quindi io condivido lo spirito con cui Mario Aiello dice: come si vede, sì, in Italia. Perché noi avevamo creduto di aver trovato, non ti dico un anti-Roma, però in Milano, però diciamo un altro modello di Italia. E ecco, insomma, queste cifre ci dicono che non c'è ancora, ecco, non c'è ancora. Vediamo un po' se nel dopo terremoto, facendo il nostro mestiere, poi la politica decide, c'è chi fa le gare, le aggiudicherà, i sindaci, il presidente, non voglio dire niente, però il nostro mestiere è quello di continuare a ragionare su queste cifre. Sentiamo qualche ascoltatore con Gabriele da Ascoli Piceno. Gabriele. Sì, salve, buonasera. Sì. Ho sentito i prezzi delle casette per i terremotati. Sì. Ah, tra l'altro io voglio precisare, 1075 euro al metro quadrato è la base di aggiudicazione della gara, non 1046 come avevo detto, 1075. Lei che dice su questo prezzo? Dico che nella zona di Ascoli, a 10 km di Ascoli, ci sono degli appartamenti in vendita, nuovi, rifiniti in classe energetica. A che prezzo? A 1200 euro al metro quadro. Ecco, io la ringrazio di questa segnalazione, perché stiamo parlando naturalmente di immobili residenziali, non di casette prefabbricate. Come vedete, quindi, qualche dubbio su quel prezzo di 1076 euro al metro quadrato è fondato, visto che ci arrivano di queste segnalazioni. Adriano da Macerata, che ci dice? Da Pescara, sempre. Da Pescara, sì. Da Pescara. Allora, io sono fortunato, onestamente, di parlare, di dire la mia. Sì. Allora, questo PD, che ha un debito, non c'entra niente col discorso che stai facendo. Ah, e allora? Allora, che ha il debito di 300, aspetti, mi sente? Sì, ma però deve essere rapido. Sì, rapidissimo, di 300 milioni di euro. Non è che queste cooperative che si interessano di altro problema. No, perché sennò quella puntata su cooperative PD è un'altra faccenda. Io in questo momento mi occupo di prezzi di aggiudicazione, delle gare e di trasparenza, perché se c'è qualcuno sanzionato dall'antitrust, l'autotutela a quel punto prevede che non può, è una misura prudenziale per le amministrazioni pubbliche, per evitare indagini poi sul danno erariale, di sospenderla da altre gare, cosa che non sta avvenendo su quella gara da 1.1 miliardi aggiudicata con 1.075 euro al metro quadrato per casette per gli sfollati. Ecco, mi spiace, Maurizio da Roma non è intervenuto, mi segnala la Righetta che era a favore della Raggi e della sua scelta sulle metropolitane, ne do atto solo così, scusate ancora per questo errore, non si ripeterà mai più, speriamo. Ma intanto appuntamento domani alle 10:12, Conti della Belva per parlare